Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Negli edifici di nuova concezione abbondano i materiali leggeri come il legno e i materiali isolanti. Al contrario, gran parte dei materiali con cui sono stati realizzati gli edifici già esistenti in Italia sono materiali massivi come la pietra di tipo diverso a seconda dell'area geografica oppure come il mattone. Questa sera ci proponiamo di conoscere un po' meglio questi materiali in relazione alle prestazioni che sono in grado di offrire dal punto di vista però dell'edilizia moderna. Ne parliamo con Adolfo Baratta, che è ricercatore del Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura dell'Università di Roma 3 ed è esperto proprio di materiali massivi. Buonasera Baratta. Buonasera. Dunque Baratta, c'è un primo dato che accomuna un po' tutti questi materiali e che è appunto la massa, che però, attenzione, non significa solo che sono materiali pesanti, ma anche che sono dotati di quella che in gergo viene definita massa termica. Ecco Baratta, ci spiega che cos'è e che ruolo ha nel comportamento degli edifici? Dunque, la questione relativa ai materiali della tradizione italiana, quindi facciamo riferimento a terra cruda, pietra, laterizio e altro, è quella proprio di avere la caratteristica di un'elevata massa termica. Massa termica intesa come capacità di accumulare calore, quindi un'elevata inerzia termica, un materiale ad elevata inerzia termica è un materiale che, diciamo così, varia più lentamente la propria temperatura, cioè ha una capacità di accumulo dell'energia termica. Un esempio? Ma l'esempio classico è quello che si fa quando si confronta un termosifone in ghisa rispetto a un attuale, un più moderno termosifone in alluminio. Cioè la ghisa aveva la capacità di accumulare, ha la capacità di accumulare energia, quindi di immagazzinare calore e di resistere più a lungo nella sua diffusione di calore rispetto a quanto non avvenga invece con il termosifone in alluminio. In alluminio, che si scalda molto rapidamente, esatto. Ma si raffredda anche molto rapidamente. Esatto. Benissimo. E quindi la questione dell'inerzia termica è proprio la capacità che ha una certa massa, un certo materiale, di accumulare calore e poi restituirlo lentamente. Quindi contribuisce praticamente a mantenere inalterata o comunque a ridurre molto l'oscillazione della temperatura di un determinato ambiente. Stabilizza la temperatura, possiamo dire così, sì, e questa è la funzione della massa termica. Per esempio, quando fa molto caldo questo materiale assorbe calore, magari di giorno quando il sole batte contro un muro, e di notte questo calore poi viene restituito. Esatto, il tempo che passa tra l'accumulo del calore e la restituzione si chiama sfasamento temporale. Per capirci, il muro che assorbe il raggio solare durante il giorno e poi con uno sfasamento magari di 8, 10, 12 ore restituisce quel calore nelle ore notturne, facendo sì che la temperatura interna praticamente rimanga inalterata. E questa è la funzione fondamentale della cosiddetta massa termica, che abbiamo capito però essere legata al fatto che la temperatura varia, no? Se la temperatura è sempre costante, questo effetto non si percepisce. Ma quando abbiamo che la temperatura sale e scende, la massa termica diventa un parametro fondamentale. Fondamentale, direi, sì. Praticamente il fattore che distingue un progetto, una realizzazione tradizionale, diciamo così, nei paesi scandinavi rispetto a una progettazione dell'edificio tradizionale nell'area mediterranea. Gli edifici scandinavi si proteggono dall'esterno, quindi non hanno necessità di interagire con lo spazio esterno e quindi creano una barriera. Si isolano, appunto. Esatto, isolano. Infatti gli isolanti termici hanno una bassissima capacità di accumulo dell'energia termica, proprio perché creano la barriera. Viceversa, costruire in area mediterranea vuol dire interagire con l'intorno, vuol dire interagire con il sole, vuol dire relazionarsi alla temperatura esterna. Attualmente si usa una valutazione, ora non voglio scendere troppo in tecnicismi, però si valuta il comportamento termico di un involucro in regime dinamico, cioè io devo valutare non solo la capacità che ha l'involucro di creare... Resistere al passaggio del calore. Esatto, ma devo valutare anche la capacità che ha questa muratura di immagazzinare il calore prima di restituirlo. Quindi è un comportamento completamente diverso. E non vuol dire che una è meglio dell'altra, vuol dire semplicemente che si deve valutare di volta in volta quale comportamento si intende utilizzare per il proprio edificio. E quindi è evidente che alle nostre latitudini un po' di questa massa termica sia in realtà preziosa, perché noi abbiamo a che fare sia con climi molto freddi, che con climi molto caldi, e soprattutto abbiamo delle forti oscillazioni di temperatura. Ecco, rispetto a queste proprietà desiderabili, isolamento abbiamo detto, ma massa termica in particolare, i materiali più diffusi in Italia come si comportano? Quali sono le caratteristiche? Dobbiamo parlare dei materiali della tradizione italiana, quindi parliamo essenzialmente di terra cruda, anche se è molto meno diffusa di altri materiali, probabilmente perché è legata alla necessità di una manutenzione più serrata, certo, diciamo così. Poi la pietra e poi non ultimo il laterizio, che può essere pieno o vuoto, no? Esatto, va distinto non solo in laterizio pieno e laterizio forato, ma il forato va ulteriormente distinto in laterizio, diciamo così, normale e laterizio termico, il cosiddetto alleggerito in pasta, dove praticamente vengono inseriti nell'impasto dell'argilla delle sostanze che determinano, una volta cotto l'elemento in laterizio, determinano dei vacui, dei vuoti. Delle bolle esatto, dentro nella pasta, per cui diventa ancora più leggero e ancora più isolante. Ecco, questi vari materiali che comportamenti hanno? Qual è quello che ha più massa termica, per esempio, e qual è quello che in generale si comporta peggio? Ma è un po' difficile da dire, perché quando si parla di pietre si parla di una famiglia che accorpa materiali anche molto diversi tra loro. L'Italia è un paese in cui ogni regione è caratterizzata dalla presenza di un materiale lapideo: il granito in Sardegna, la pietra serena in Toscana, il botticino in Lombardia, il travertino nel Lazio piuttosto che il trani nella Puglia. La questione è però che in funzione della massa, in funzione della densità della pietra, si ha un comportamento diverso, cioè un materiale molto denso, come il granito per esempio, che è molto molto pesante, ha una elevata capacità di accumulo, però probabilmente funziona meno da un punto di vista della trasmittanza termica. Dell'isolamento, quindi. Esatto, perché la grande densità favorisce la trasmissione del calore. Bisogna valutare di volta in volta il materiale in funzione anche dello spessore, cioè per ottenere un buon comportamento con una muratura in pietra probabilmente, anzi sicuramente, si necessita di uno spessore molto significativo. Il laterizio è un materiale che invece ha comportamenti diversi in funzione della percentuale, diciamo così, di foratura. Mm-hmm. Un mattone pieno ha sicuramente una buona capacità di accumulo, però ha allo stesso modo una scarsa resistenza termica. Su murature di un certo spessore, pensiamo agli edifici storici della tradizione italiana, pensiamo alle tante chiese, se ho un muro di 50 cm, di 80, 100 cm, ho una capacità di accumulo tale che vado a compensare anche la dispersione termica. Sarà capitato di entrare d'estate in una chiesa e sentire una condizione, un comfort, una situazione di benessere. Non è legato al fatto di avere un impianto di raffrescamento, ma semplicemente perché il muro ha la capacità, visto lo spessore, vista l'elevata inerzia termica, ha la capacità di assorbire il calore e quindi di proteggere, diciamo così, lo spazio interno dall'esaggiamento diretto. D'altra parte, se pensiamo a una costruzione come il trullo, è veramente un bunker fatto con delle pareti spessissime di pietra. E un'altra cosa sulla quale possiamo riflettere, basta pensare al fatto che pochi metri sottoterra, quindi coperti da una certa massa termica, la temperatura è costante praticamente tutto l'anno. Perfetto. Indipendentemente da quello che succede fuori, no? Ha fatto due esempi molto calzanti. Il primo è quello del trullo, che per forma e per massa, e quindi per le qualità del materiale, garantisce praticamente la stessa temperatura sempre, nonostante non abbia nessun tipo di impianto. D'impianto. Esatto. Ma poi allo stesso modo si possono pensare ad esempio alle case dello Scirocco in Sicilia, che sfruttano il vento per avere il raffrescamento e la massa della muratura per garantirsi la protezione. E poi la terra, il principio della massa della terra cruda vale anche per il terreno ovviamente, per questo i giardini pensili garantiscono grandi vantaggi termici quando utilizzati, proprio perché si pone una massa importante che riduce gli sbalzi tra la temperatura interna e la temperatura esterna. Per il momento ci dobbiamo fermare qui. Domani parliamo di come intervenire su edifici costruiti in questi vari materiali a seconda dei casi. Grazie Baratta, allora appuntamento a domani. A domani.